dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha. Radio Libri Amoci Web. Libera, solidale, divertente. Tra le righe. Libri, autori, consigli di lettura e non solo, con Adelaide Spallino. Bentornati a Tra le righe, dopo la pausa estiva, che comunque ci ha visti impegnati a preparare le nuove puntate di questa piccola rubrica che oggi riprende il suo spazio qui su Radio Libriamoci Web. La nostra formula non cambia, continueremo a parlare di libri e a incontrare autori alla nostra maniera. Oggi ritorniamo sul web con un romanzo molto interessante, scritto in maniera brillante da Timur Vermes, giornalista tedesco con un passato da ghostwriter. Lui è tornato, pubblicato da Bompiani. Il lui in questione è niente poco di meno che Hitler in persona, risvegliatosi un bel giorno del 2011 in un campo, in una Berlino completamente diversa da quello che ricorda e che l'ha visto protagonista. Che ci fa lì? E com'è che con lui non ci sono Goebbels, Bormann? Che fine hanno fatto tutti? Mentre cerca di ricostruire gli eventi che l'avrebbero condotto fino a quel punto, non si perde d'animo come farebbe qualsiasi altra persona e nel suo girovagare si imbatte nel chiosco di un edicolante che immediatamente lo scambia per un attore comico e nonostante i tentativi di Hitler di dimostrare che in realtà lui è il Führer e non che sembra il Führer, gli procura una scrittura presentandolo a uno dei suoi clienti. Hitler si ritrova così catapultato in televisione, dapprima come ospite e poi addirittura con un programma tutto suo, di fronte ad un pubblico sempre più increscendo e sempre più divertito dai suoi deliri. Prenderà dimestichezza con il computer, con YouTube, con internets, come lo chiama lui, con il cellulare e con un mondo cambiato che non riconosce e che non accetta. E come potrebbe? In Germania regna una pacifica convivenza tra tedeschi e stranieri. Alla guida del paese c'è una donna e il suo partito è diventato l'ombra di se stesso. La lettura di Lui è tornato è divertentissima, piena di trovate, anche se qualcuno potrebbe obiettare che prendendo un qualsiasi personaggio del passato e facendolo rivivere ai giorni nostri, gli effetti esilaranti si sprecherebbero ugualmente. Certo è che la trama da sola non basta, ci vuole capacità di rendere quella trama una narrazione accattivante e coinvolgente. Va da sé che Lui è tornato non tenta nemmeno di rendere simpatico un pazzo criminale e se si ride è perché lo si fa amaramente, perché ogni lettore sa cosa è costata all'umanità l'escalation politica di Hitler. Si tratta di un romanzo satirico, così come è stato satirico, ad esempio, il film di Chaplin, Il grande dittatore. E la satira è priva di quella risata crassa e fine a se stessa che caratterizza invece un certo tipo di comicità, diciamo, usa e getta. La satira va oltre, interviene nel profondo e fa riflettere. Quello che succede in questo romanzo è terribile. Ed è terribile il successo di Hitler come attore comico, successo decretato dal fatto che il mondo oggi è più cinico, che vive di apparenze, di rapidi mi piace sui socials, un mondo dove tutto subisce un consumo rapido perché deve lasciare il posto a qualcos'altro. Il successo di Hitler non lascia presagire nulla di buono, ma non viene detto apertamente, viene fatto intendere al lettore, che rimane alla fine del libro con un certo senso di inquietudine. Prima di salutarci, una curiosità. In Germania il Mein Kampf è vietato. La Land della Baviera è proprietaria dei diritti del libro di Hitler che scadranno nel 2015, trascorsi 70 anni dalla morte del suo autore. La Land stessa sta correndo ai ripari e pubblicherà una versione del Mein Kampf commentata dallo storico Christian Hartmann, pronto a mostrare la spaventosità delle parole contenute nel libro e scongiurare il rischio di una mitizzazione che si possa concretizzare in qualcos'altro. Intanto noi ridiamo, anche se amaramente, con il brillante Lui è tornato di Timur Vermes per Bompiani. E noi ci sentiamo alla prossima. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata e vi ricordano che questo programma è realizzato nel rispetto dell'articolo 70 della legge 633 sul diritto d'autore. Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente.